È stato depositato alla Camera un emendamento della Lega, a prima firma Igoiezzi, un emendamento del decreto sicurezza bis, secondo il quale le multe alle navi che non rispettano i divieti introdotti appunto dal decreto ammonterebbero a somme tra i 150.000 euro e 1 milione rispetto alle cifre attualmente previste, che vanno da 10.000 a 50.000 euro. È l'ennesimo atto di una guerra evidente che questo governo ha dichiarato alle migranti, a tutte quelle persone che fuggono da una guerra in Libia, una guerra che questo governo ha dichiarato in maniera esplicita a tutte le ONG, a tutte quelle navi della società civile, a quelle esperienze di umanità, di solidarietà che insistono nel provare a rispondere alla barbarie, a trovare delle soluzioni contro la disumanità crescente, il razzismo imperante e alle retoriche che si fondano sulla paura. In questi giorni abbiamo visto cosa significa questo attacco. Abbiamo una barca sotto sequestro da 3 mesi, la Mare Ionio, sotto sequestro probatorio, dopo un salvataggio che abbiamo effettuato qualche mese fa. Abbiamo Alex, la barca a vela, confiscata proprio in seguito anche a un sequestro amministrativo che è arrivato ieri, con una multa di oltre 65.000 euro, che abbiamo ricevuto tra l'altro per una presunta reiterazione in ingresso in acque territoriali italiane. È un fatto veramente assurdo perché avremmo reiterato l'ingresso in acque territoriali italiane in quanto venerdì 5, che eravamo appunto fuori dalle acque territoriali italiane con le nostre imbarcazioni Ale, con 59 persone a bordo più 11 di equipaggi, una situazione veramente estrema, è successo che inconsapevolmente la nostra barca praticamente scarrociato di qualche centinaia di metri, e quando la motovedetta della Guardia di Finanza tra l'altro ci ha comunicato questa cosa tra l'altro è anche scritta nei verbali della Guardia di Finanza, si è subito spostato, e quindi è evidente che era una manovra inconsapevole. Quindi dire che questo è un atto di reiterazione è veramente paradossale, veramente imbarazzante, ed è evidente che si tratta di un atto che arriva del tutto illegittimo, sembra quasi proprio una vendetta privata nei nostri confronti. Detto questo, è arrivato quindi questo sequestro amministrativo che poi arriverà al prefetto, che per diventare appunto una vera e propria confisca della Alex, con questa multa attorno ai 66.000 euro. È evidente che questa è una mossa chiara che è stata fatta per intimidirci, per fermare la nostra attività, ma è evidente che per quanto ci riguarda non è così che ci fermeranno, ci provano, ci riprovano, ma abbiamo tutta l'intenzione di andare avanti, di continuare la nostra attività in mare, perché c'è bisogno di tornare in mare, perché abbiamo visto in questi giorni quello che succede nel Mediterraneo centrale, l'abbiamo visto in questi mesi, abbiamo visto quel confine cosa è diventato, il confine più letale al mondo, abbiamo visto anche nell'ultima missione, nel nostro percorso, nella nostra attività, abbiamo visto che ci sono dei relitti di imbarcazione. Abbiamo sentito spesso il termine imbarcazione fantasma riferiti a quei barconi che riescono ad arrivare a Lampedusa, magari nella notte, nel silenzio, senza la propaganda politica di Salvini che gli si va contro. Però in realtà imbarcazioni fantasma esistono anche nel Mediterraneo, sono quei gommoni, quei relitti che purtroppo ci sono e che testimoniano che in realtà, senza che nessuno lo sappia, con la chiara intenzione di svuotare quel mare da testimoni, continuano a morire tantissime persone. Perché quelle persone continuano a fuggire dalla Libia, da un paese in guerra, continuano a fuggire da centri di detenzione disumani, dove avvengono torture e violenze, e dove, tra l'altro, in questi giorni arrivano anche le bombe di quella guerra in Libia, e contemporaneamente le persone che gestiscono quei centri parano anche ai migranti che provano a fuggire dalla guerra. Ecco, il fatto di essere lì per noi è fondamentale, perché tutto questo non vogliamo che accada, perché è importante monitorare, denunciare, aiutare chi ha bisogno di noi. noi in questo momento, perché la vita umana per noi non ha alcun prezzo e quindi se dovremo pagare una multa le pagheremo, abbiamo comunque fatto ricorso e abbiamo però anche tutto il sostegno di tutte quelle persone, associazioni locali, realtà territoriali che continuano a sostenere Mediterranea attraverso il nostro sito. Avete infatti attivato una raccolta fondi, giusto? Sì, abbiamo attivato questa nuova raccolta fondi, abbiamo rilanciato la nostra raccolta fondi proprio per le spese che abbiamo da affrontare, abbiamo anche da pagare tutte le varie cose che ci servono anche per tornare in mare il prima possibile, quindi dobbiamo trovare un modo per tornare in mare ed è per questo che abbiamo rilanciato la nostra raccolta fondi per pagare le spese legali, le spese delle sanzioni amministrative, la multa sull'Alex e anche per trovare un mezzo, per trovare un modo per tornare in mare il prima possibile, perché è fondamentale essere lì e noi siamo convinti che ci sia in questo paese dei pezzi, ci siano dei pezzi di società che credono in Mediterranea, che credono in generale nella necessità di attivarsi per cambiare le cose, per trasformare questo presente di disumanità, di barbarie e che ci sia bisogno di rispondere a questo attacco che ci viene fatto dal governo, che viene fatto non soltanto agli ONG, non soltanto a Mediterranea, ma viene fatto a tutte quelle forme di solidarietà, di attivazione che provano a contrastare delle politiche razziste, delle politiche disumane, discriminatorie e noi pensiamo che da questi pezzi di società non solo arrivi tutto il sostegno Mediterranea per continuare a compiere la propria attività in mare, ma che sia davvero possibile provare a costruire delle mobilitazioni, degli spazi di attivazione che vadano realmente a trasformare le cose e a rovesciare quel cortocircuito che si è creato in questi mesi dove la solidarietà è diventata un crimine, per riaffermare in invece una realtà completamente diversa. Prima hai parlato dei centri di detenzione libici. Proprio ieri leggevo un articolo sullo scontro che si è creato nel dibattito politico americano attorno alla decisione di una deputata di definire campi di concentramento i luoghi di detenzione dei migranti al confine meridionale USA. In riferimento anche ai luoghi di detenzione in Libia, questo articolo fondamentalmente diceva noi abbiamo paura a parlare di campi di concentramento perché sostanzialmente sappiamo che lo sono, ma non vogliamo ammettere che una cosa così tremenda sia di nuovo tornata nelle nostre vite di occidentali del 2019. Tu cosa ne pensi di questo? Il paragone diventa quasi un po' d'obbligo. È evidente che ognuna di noi, ognuno di noi ha pensato all'immagine di quei lager nazisti quando ha visto le immagini forti, drammatiche, terribili che ci sono arrivate dai centri detenzione in Libia ed è chiaro che forse c'è anche proprio timore, c'è forse anche proprio paura di dire siamo complici di cosa che non possiamo osservare in silenzio, di cui non possiamo renderci complici perché poi la storia ne renderà conto e io credo che quei campi siano dei veri e propri lager, ne sono convinta, quei campi sono dei luoghi in cui avvengono delle violenze e delle torture indicibili e questa cosa noi l'abbiamo vista sulla pelle dei migranti che abbiamo incontrato, nei racconti che ci hanno fatto di quei centri, di mesi, a volte anche anni di prigionia. Nell'ultimo salvataggio tutte quelle persone che abbiamo soccorso venivano da lì, venivano da quei centri di detenzione e avevano dei numeri sui vestiti perché era un numero che li faceva riconoscere ed è evidente che quando si ascoltano questi racconti la mente va indietro. Non so se può essere fatto un paragone, se è la stessa cosa, però quel che è sicuro è che quei campi sono dei campi che vanno chiusi, sono dei centri di tortura che però i governi europei e il governo italiano in particolar modo continuano a foraggiare. C'è bisogno di chiuderli, c'è bisogno di chiudere anche quella catena che sostiene tutto quel circuito criminale che esiste in Libia, che affida a delle milizie la gestione di quei campi, che affida a delle milizie la gestione della cosiddetta Guardia Costiera che opera in una zona SAR, che è quella libica, che per quanto mi riguarda non ha nessuna legittimità ad esistere perché non esiste una guardia costiera libica ma esistono delle milizie che sono le stesse poi che catturano quei migranti, quindi che fuggono dai centri di detenzione in Libia, le catturano quando provano a fuggire e li riportano indietro a quello che i migranti stessi chiamano inferno ed è un circuito criminale che questo governo, le nostre autorità, cosiddette autorità competenti, stanno continuando a sostenere. Non possiamo più essere indifferenti. C'è bisogno che quelle persone rinchiuse in Libia vengano liberate, che quelle persone siano libere di muoversi, libere di arrivare in Europa. Per questo l'azione di Mediterraneo è fondamentale, perché è questo quello che ci muove, quello che accompagna la nostra azione nel Mediterraneo, perché è quello su cui abbiamo fatto luce in questi mesi, in un momento in cui il governo italiano, i governi europei hanno svuotato scientemente quel mare da testimoni, perché nessuna doveva dire quello che realmente accadeva, perché nessuno doveva smascherare le falsità che questo governo continua a raccontare su quello che avviene in Libia, su quello che avviene nel Mediterraneo. Noi invece ci siamo permessi di farlo, l'abbiamo fatto e lo vogliamo continuare a fare, ed è per questo che forse diamo fastidio, perché proviamo a ristabilire la realtà, perché proviamo a rimettere ordine a una serie di narrazioni tossiche che vengono fatte sulla pelle dei migranti, sulla pelle di tutte e tutti noi in realtà, che ci battiamo affinché non ci siano queste vessazioni, non ci sia questa criminalità che viene sostenuta anche economicamente dal nostro governo, perché se vediamo anche quello che è successo recentemente, sappiamo bene che in Parlamento il governo ha rinnovato la missione e quindi l'attività di sostegno con la cosiddetta Guardia Costiera Libica.